Me, io spoglio a te, perché

come sei vestita spogliata. Come? Era cosa vuoi, scusa, se c'è ancora le scarpe da calza, cosa vuoi? Tanto io non ti vedo da qua, perciò ti puoi spogliare pure tutto. Capanoce. Thank you. Bene, che non c'è nel cuore M, te splatteri. Hai visto, cano? Io già lo so dove abiti tu. Cada gata, hai di me presentissi o no, se un chiudo. Capa. Ho detto qua vecchio, non ti posso. Di telefono per farlo schiattare.